grazie a Dario per questa velocissima ma densa carrellata di costruzione. Io adesso passerei la parola a Matilde, e proprio utilizzando un'espressione di Dario, no? Recuperare del senso che c'era prima, non l'abbiamo perso, il terremoto non ha perso il senso dell'abitare di prima. Qual è stato il senso che invece la ricostruzione in Sri Lanka, i sensi forse lì, che la ricostruzione in Sri Lanka ha dovuto in qualche modo ascoltare, oppure come dicevamo prima non ha ascoltato?